9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. Buongiorno cari ascoltatori, diciamo così che sta continuando a portar bene ad aver attaccato Enzo Iannacci in questi giorni ai Doors The End, perché anche ieri con l'intervento del governo, del presidente della BCE, Mario Draghi, una solidissima inversione di tendenza, anche se solo temporanea, vedremo quanti giorni dura, è stata data all'eurocrisi. Gli spread sono scesi significativissimamente sotto soglia 500 per l'Italia, ovviamente stare sotto sopra soglia 400 non è comunque ordinaria amministrazione e siamo comunque esposti, però il presidente della BCE ieri è tornato a ribadire con grande energia che considera del tutto coerente l'articolo 123 del trattato intervenire per la tutela non solo della stabilità della moneta affidata dal trattato e dallo statuto della BCE, ma anche della stabilità della finanziaria dell'euroarea in quanto tale. Rientra nei poteri della BCE, lui lo farà. E il mercato di fronte a questa risolutezza ha la reazione positiva che è in corso da ieri. Le voci riservate hanno voluto che pochi minuti, entro un'ora dopo questa sua presa di posizione molto energica e di fronte al mercato che reagiva molto bene, tedeschi e altri componenti del consiglio della BCE si siano fatti vivi con lui dicendo hai esagerato. La dialettica resta aperta, ma non possiamo che augurarci nel breve, finché l'Italia è esposta senza salva spread, fino a che il consiglio, la Corte Costituzionale tedesca si pronuncerà il 15 settembre, che la linea della fermezza da questo punto di vista prevalga, altrimenti non si perde l'Italia, la Spagna, la Grecia, si perde l'idea dell'euro e a quel punto si mettono in atto una serie di conseguenze di fronte alle quali potremmo cambiare ulteriormente canzone. Intanto la cosa è così ed è positiva e godiamocela finché dura. Ma il tema della puntata di oggi, venerdì 27 di luglio, inciso auguri a chi festeggia San Pantaleo, oggi un nome un po' singolare ma qualcuno ci sarà, è invece il caso dell'Ilva. Come temevamo, ce ne eravamo occupati qualche giorno fa, sono arrivati ieri i provvedimenti della magistratura, e i provvedimenti della magistratura assunti dal GIP Patrizia Todisco sono di particolare durezza. Stiamo parlando di il cuore, un pezzo fondamentale della storia dell'industria della siderurgia italiana, l'Ilva, il più grande stabilimento siderurgico oggi in Europa. Stiamo parlando di uno stabilimento che, quando era nelle mani dello Stato, Qualitalsider perdeva a bocca di barile, e che con i proprietari privati invece la famiglia Riva è tornato a essere una punta avanzata dal quale dipendono non solo in buona parte per i prodotti che escono dall'Ilva tutti gli acciaieri siderurgici italiani per milioni e milioni di tonnellate. Stiamo parlando di oltre 11.000 dipendenti, 20.000 famiglie, 60.000 lavoratori nell'indotto. Ma dopo un'indagine durata anni sull'ipotesi di disastro ambientale, cioè che la proprietà privata abbia per anni trascurato la necessità, che pure vedeva interventi deliberati dal 2008, di mettere mano alla diminuzione dell'impatto ambientale delle lavorazioni all'Ilva, alla fine il GIP ha detto 8 provvedimenti di custodia cautelare, tra cui quello dell'ex patron del gruppo fino a 2 anni e mezzo fa, cioè Emilio Riva e suo figlio Nicola, in custodia cautelare, e oltre a questi poi anche gli ex capi del personale, e il blocco contestuale per 6 reparti core fondamentali per il ciclo continuo della lavorazione dell'acciaio. Conseguenza immediata, malgrado il governo, le autorità locali, i sindacati avessero chiesto una logica diversa, cioè quella di non interrompere con le misure cautelari della giustizia la lavorazione, ieri immediatamente tutti nelle piazze. Tenteremo di capire ancora una volta che cosa si può fare per impedire, come tutti scrivono sui giornali di oggi, che la giusta istanza della tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro e della salute di chi lavora, ma anche poi di tutta la popolazione di Taranto e della sua falda acquifera, non entri in contrasto, viste le condizioni dell'economia italiana, con la necessità di continuare a lavorare, lavorare bene e di dare occupazione, perché non c'è bisogno ovviamente di aggravare ulteriormente la cornice già molto seria dei problemi italiani. Cominciamo a parlarne con il ministro dell'ambiente Corrado Clini, che in questi giorni più volte è intervenuto su tutti i quotidiani, le radio, le televisioni, sostenendo proprio questa logica, cioè sottolineando tutte le misure che erano in corso, le centinaia di milioni che sono stanziate per i provvedimenti, le misure di intervento nello stabilimento da parte pubblica, centrale e locale. Oggi io saluto il ministro Clini, gli chiedo immediatamente, buongiorno, perché potrà stare, buongiorno, pochi minuti con noi, all'indomani delle misure della magistratura e naturalmente senza entrare nel merito, perché non spetta a lei entrare nel merito delle misure assunte dalla magistratura, concretamente che cosa si può dire ai lavoratori, alla comunità delle loro famiglie e all'economia italiana intera? Che cosa si può fare con i provvedimenti pubblici di cui lei più volte ha parlato? In che misura si può tentare di riaprire e di levare i sigilli disposti dalla magistratura? Guardi, ovviamente la magistratura ragiona con una logica, segue un approccio che non è esattamente quello del governo, per cui io non posso dire se le iniziative che abbiamo assunto congiuntamente, governo e regione in particolare, saranno in condizione di suggerire alla magistratura un approccio diverso. Quello che però, in base alla legge e in base anche a una logica di fattibilità, diciamo così, si deve continuare a fare è attuare tutte le misure che sono già previste nell'autorizzazione integrata ambientale, che è una procedura stabilita dall'Unione Europea per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti industriali, prescrizioni che noi abbiamo dato nell'agosto del 2011 con un'autorizzazione concordata con la Regione Puglia, prescrizioni che sono state poi aggiornate nel corso degli ultimi mesi. L'azienda ha questo quadro di riferimento molto chiaro di prescrizioni date, di misure che devono essere assunte negli impianti industriali, e io credo che questo è quello che si debba fare, tenendo conto che stiamo parlando di un impianto industriale molto complesso. Non esiste un bottone da accendere o spegnere che cambia le cose, neanche volendo fermare gli impianti, questo può avvenire nell'arco di qualche ora, ha bisogno di più di un mese, semplicemente la procedura di messa in sicurezza. Allora, noi abbiamo, credo, la possibilità concreta di seguire esattamente quello che già è previsto, è già stato stabilito, prima ancora che la magistratura decidesse le misure che poi ha preso ieri, e nello stesso tempo, siccome questo è un percorso che è sostanzialmente identificato con la partecipazione da un lato delle autorità pubbliche che autorizzano e dall'altro dell'impresa che deve attuare le misure indicate, io credo che la situazione attuale suggerisca caldamente all'impresa di assumere un atteggiamento più collaborativo con le amministrazioni, cioè di non resistere alle prescrizioni e alle misure che sono già state indicate per il risanamento ambientale dell'Ilva. Dall'altra parte però, come ministro, mi sono anche assunto la responsabilità di modificare dove serve e dove è giusto un atteggiamento, potremmo dire, un po' barocco, ecco, dell'amministrazione, che spesso, e non solo nel caso dell'Ilva, lega le autorizzazioni ambientali a condizioni che spesso non sono fattibili. Mi spiego meglio, noi dobbiamo fare in modo che le misure che l'azienda deve prendere per aggiornare le tecnologie per migliorare l'efficienza degli impianti siano compatibili con la competitività dell'impresa, altrimenti se l'impresa deve chiudere perché non ha le risorse e le possibilità di corrispondere alle prescrizioni ambientali, il risultato non è certo positivo. E da ultimo voglio dire che in ogni caso negli ultimi 3 anni almeno gli impianti industriali dell'Ilva sono stati oggetto di trasformazioni importanti che sono in corso, e io credo che sarebbe veramente sbagliato interrompere questo percorso di risanamento ambientale, che è anche di miglioramento tecnologico e di aumento di fatto della competitività dell'impresa, perché pesano le responsabilità dell'impresa stessa per quanto è avvenuto negli anni e nei decenni precedenti, senza dimenticare a proposito dei decenni precedenti che l'Ilva adesso è del gruppo Riva, ma l'Ilva è stata una grande iniziativa industriale pubblica che per decenni è rimasta grande iniziativa industriale pubblica, per cui se vogliamo risalire un attimo nella storia le responsabilità probabilmente vanno cercate in modo un po' più articolato di quanto non avvenga oggi. Signor Ministro, nell'ambito delle procedure giudiziarie previste in questo caso, perché questa è un'ordinanza di un GIP, quindi per chi ricorda la procedura, poi si va in caso di impugnativa di fronte al Tribunale del Riesame. Al di là delle misure di custodia cautelare, per quello che riguarda la continuità dello stabilimento per effetto dei sigilli su questi 6 reparti chiave che sì, interrompono la lavorazione, in quella sede, a suo giudizio, visto il rilievo che ha per l'economia non solo locale ma nazionale questa vicenda, potrebbe essere ipotizzato che in sede di riesame valutazioni come quelle che lei ha appena ripetuto e che ha ripetuto in questi giorni, anche prima che la magistratura decidesse, venissero portate all'attenzione del magistrato, non solo per così dire da chi rappresenta le parti nei confronti dei quali sono stati irrogati il provvedimento, ma che in quella sede le autorità locali e l'autorità centrale del governo in sede del tribunale di riesame sottolineassero questa serie di impegni che lei ricorda agli occhi della magistratura? Perché qui c'è un'indagine che con le perizie che hanno indotto il magistrato ad assumere queste misure, la perizia chimica, la perizia epidemiologica e così via, si è soffermata sull'impatto che la lavorazione ha avuto per molti anni nello certo stabilimento e fuori. Mentre adesso lei parla di una cornice di misura degli ultimi mesi, degli ultimi anni e che guarda al futuro. Non sarebbe il caso di provare in sede di tribunale del riesame? Oppure secondo lei è meglio tenere proprio separate le due cose e il giudice valuterà se quello che le autorità centrali e locali si assumono come impegno insieme all'azienda? L'azienda da sola nel procedimento è chiaramente colpita da misure che non la rendono capace di con credibilità agli occhi del magistrato, visto che ha assunto queste misure, di fargli cambiare idea sui sigilli. Guardi, quello che è avvenuto negli ultimi anni in termini di misure prese, quello che sta avvenendo in queste settimane attraverso l'attività congiunta del Ministero dell'Ambiente e della Regione Puglia è un fatto. Io personalmente non ho nessuna difficoltà, se mi viene chiesto, di illustrare alla magistratura che cosa sta avvenendo, qual è il percorso e quali sono le previsioni che noi possiamo fare in merito alla riqualificazione degli impianti, tenendo conto anche dell'aggiornamento delle normative europee. Se la magistratura deve valutare i fatti, questa è certamente una parte della situazione che va considerata. Allora, questa disponibilità che è eccezionale ed è rispettosissima dei poteri della magistratura da parte del governo per bocca di Clini, noi la offriamo come contributo di questa trasmissione di Radio 24 all'attenzione, lanciamo sulle agenzie, speriamo che la magistratura comprenda e raccolga nelle reazioni che si stanno provocando da ieri pomeriggio a Taranto ma in tutta Italia, che forse per una volta all'interno della stessa procedura di fronte al Tribunale del Riesame tutta questa serie di impegni, di interventi, non solo quindi dell'azienda ma di tutto tutto il contesto istituzionale che è stato interessato negli anni, perché va avanti da molti anni la procedura e la richiesta di impegni per risanare la lavorazione e le sue conseguenze, venga agli occhi del magistrato come un elemento fondamentale di cui tenere presente, perché i provvedimenti cautelari, quando intervengono con una vastità e profondità di conseguenze tanto dura su un nodo fondamentale di uno sviluppo non solo locale ma nazionale, io credo che non sia improprio chiedere alla magistratura, non sia irrispettoso della sua indipendenza, chiedere di valutare nel procedimento, rispetto alle misure che ha assunto, l'importanza di questi elementi, che non sono chiacchiere. Qui si tratta di programmi contrattati, di molte centinaia di milioni, di impegni, e io credo che non è una polemica contro la magistratura dire che chi chiede il rispetto di queste cose, chi chiede che abbiano un rilievo, si batte perché la giustizia contemperi però la realtà e le conseguenze nella realtà di queste misure cautelari. Grazie al ministro Clini, che ci deve salutare. E abbiamo con noi Rocco Palombella, che è segretario generale della UILM. Lo abbiamo sentito pochi giorni fa, esattamente mentre eravamo in attesa di queste misure cautelari. Ora sono venute e i sindacati e i lavoratori ieri a migliaia sono scesi nelle piazze difendendo il diritto al lavoro, al lavoro nella sicurezza. E oggi c'è, i miei amici del Fatto Quotidiano aprono proprio con un titolo che esprime questo paradosso, perché l'apertura del Fatto Quotidiano è Taranto, lavoro o morte. Allora, questa contraddizione terribile che fa apparire quasi in colpa i lavoratori e i sindacati, che oggi dicono: ragazzi, non ci potete chiudere con quello che succede in Italia, non ci potete buttare per strada quando invece bisogna difendere lo stabilimento e la sua lavorazione. Come può portare agli occhi della magistratura il rilievo delle cose che ci ha detto il ministro, delle cose che ci aveva detto lei pochi giorni fa? Come evitare che diventi uno scontro istituzionale di cui non c'è bisogno e immaginare invece un percorso concreto in base al quale la magistratura capisca che nelle misure cautelari sui sigilli ai reparti degli stabilimenti deve tenere obbligatoriamente in considerazione le conseguenze terribili che si sprigionano da quei sigilli. Lei che dice, Palombella? Ma io ritengo che in questo momento qui l'iniziativa che abbiamo messo in campo da poche ore, finita l'assemblea con migliaia e migliaia di lavoratori, debba essere indirizzata appunto nei confronti, ma io ritengo in questo momento qui, della Presidenza del Consiglio, per cercare ovviamente di evitare che un gruppo di tecnici non nominati, diciamo, dalla magistratura, perché in questo momento il paradosso è che come se lo stabilimento fosse stato commissariato, cioè quindi dei tecnici esterni dovrebbero, diciamo, mettere in atto delle procedure di spegnimento, diciamo, degli impianti. Se qualora questa situazione si dovesse verificare, questa è la distruzione, la sconfitta per tutti. Quindi noi la cosa che desideriamo, la cosa che vogliamo, la cosa che continuiamo a rimettere, diciamo, al centro, è che in questo momento qui il governo dovrebbe assumere, perché non c'è un'autorità che possa sostituire la magistratura in questo momento qui. Certo. Cioè il governo deve mettere in piedi, la Presidenza del Consiglio deve mettere in piedi una iniziativa tale da poter diciamo, evitare di poter scongiurare la fermata degli impianti a caldo, perché fermare gli impianti a caldo significa non farli più ripartire. Esatto. Quindi condannare inesorabilmente questo stabilimento, questa comunità, questi lavoratori, questa nazione, quindi l'Italia, perché a catena non è solo un problema di Taranto, oggi manifesteranno anche i lavoratori di Genova, i lavoratori di Novi Ligure, i lavoratori dell'altro stabilimento di Mestre, perché le lavorazioni di Taranto vanno a questi stabilimenti, fermando Taranto si fermano anche questi stabilimenti qui. Quindi io ritengo che questo problema, che è di rilevanza nazionale, non può essere lasciato ai tempi della magistratura, alla possibilità di un riesame con tutti i rischi, o che peggio ancora il tribunale possa chiudere e riaprire addirittura alla metà di settembre. Con una situazione, voglio dire, di adesso la città purtroppo è presidiata in tutti i suoi punti, c'è un blocco totale sia degli ingressi che delle uscite delle città, e questo ovviamente provoca, come è immaginabile, una tensione tra le persone che vogliono ovviamente andare in città, uscire dalla città, e tutti i lavoratori che ovviamente immaginano che questa situazione li possa danneggiare a ragione, li possa danneggiare dal punto di vista del futuro e della prospettiva. Palombella, uno dei punti fondamentali nelle 303 pagine di motivazione delle misure assunte ieri della magistratura è che il GIP ha ritenuto, su questo con considerazioni anche più toste di quelle contenute nelle richieste del pubblico ministero, che in realtà la famiglia Riva, gli imprenditori privati, primo sapessero tutto da anni delle evidenze che sono nelle perizie sulle conseguenze della lavorazione per l'intera città, la perizia chimica, quella epidemiologica, ma soprattutto che dal 2008 in avanti, negli ultimi anni, di fronte a l'annuncio di 4 miliardi di investimenti, di cui un terzo dedicati, secondo le dichiarazioni dell'impresa, al fine delle bonifiche, EGIP dice l'impresa in realtà è l'imprenditore acciullato nel manico. I rappresentanti vostri, dei lavoratori nello stabilimento, in questi anni si sentono di condividere, per così dire, il giudizio del GIP di ieri, o come stavano le cose viste dal di dentro? I lavoratori dicono, ma io non ho motivo, diciamo, di smentirli, è che il processo di investimenti e di ammodernamento nello stabilimento è un fatto, voglio dire, continuo. Il fatto che si sia intervenuti, per esempio, per abbassare ai minimi termini anche rispetto a delle normative mondiali ed europee, per esempio la diossina durante la cottura dell'agglomerato con l'impianto di urea, è un fatto, voglio dire, risaputo, lo sanno tutti, voglio dire, non è un fatto, voglio dire, che lo sanno solo in pochi. Il fatto che sulle cokerie sono stati fatti investimenti ingenti, sia per quanto riguarda il caricamento, sia per quanto riguarda lo sfornamento del carbon coc, è un fatto risaputo, cioè, voglio dire, non è un fatto che non lo sa nessuno. Molto probabilmente ci dovevano essere fatti altri investimenti, altri interventi, e questo, voglio dire, è nelle cose. Però il fatto che si dica che nell'interno dello stabilimento, lo stabilimento è rimasto diciamo fermo nei suoi investimenti, così come io ritengo di doverli contestare, perché uno stabilimento siderurgico, se non viene ammodernato continuamente, cioè lo stabilimento ha bisogno in continuo di essere diciamo manutenzionato e con interventi, diciamo, sull'ambientalizzazione, altrimenti è un stabilimento che, siccome ha più di 50 anni, questo stabilimento a quest'ora sarebbe morto, voglio dire, sarebbe crollato. Invece lo stabilimento è uno stabilimento che, si nota, ha avuto interventi massicci da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista ambientale. Quando nel 93 si procede alla privatizzazione, la mano inefficiente dello Stato aveva portato questo, che è il più grande stabilimento siderurgico europeo, a patrimonio zero, dopo 3.000 miliardi di lire perse nelle lavorazioni in questo stabilimento. Ricordiamocelo, perché è ovvio che altrimenti la bilancia dei giudizi è il privato cattivo che fa morire la gente. Lo Stato aveva distrutto il valore di quello stabilimento perdendoci 3.000 miliardi di lire. Poi con noi in questa seconda parte della trasmissione il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli. I Verdi hanno da sempre richiesto, appunto, la linea dura, e quindi ieri hanno commentato molto positivamente il dispositivo assunto dal GIP di Taranto. Io voglio ricordare che anche il sindaco di Taranto, il sindaco Stefano, ha ringraziato la magistratura per la misura assunta ieri, dicendo: questo consente di voltare davvero pagina. Bonelli, buongiorno e grazie di essere con noi. La domanda che le faccio è appunto di spiegarci perché voi la pensate diversamente da Clini, da quello che ci ha detto il rappresentante della UIM. E, per così dire, di fronte a chi dice non si possono assumere misure anche molto ferme, ma contemporaneamente non chiudere gli impianti, per voi questa è un po', se ho capito bene, non le voglio attribuire opinioni improprie, una specie di falsa considerazione, perché quello che ha più rilievo invece è la durezza che fa voltare pagina e mette alla sbarra i colpevoli di anni e anni di lavorazioni a forte impatto ambientale. Perché non considerare la tutela del lavoro anche fondamentale? Innanzitutto la voglio ringraziare per avermi invitato e consentire di esprimere la nostra opinione e la nostra trasmissione. Voglio dirle anche che io penso che quello che è accaduto ieri in realtà non è una bella giornata, ma è una brutta giornata. una brutta giornata innanzitutto perché l'autorità giudiziaria ha di fatto sancito un fatto, la istituzione della politica. Aspetti però, perché noi grazie al pessimo collegamento del telefono in questo momento non la sentiamo. Facciamo così, noi proviamo a richiamarla subito, vado a una telefonata e vediamo se richiamandola lei ricomincia da capo, perché non si è capito assolutamente nulla. Quindi mentre lo richiamano dalla regia, io passo la linea all'ascoltatore Adolfo, che ci chiama da Genova. Prego Adolfo. Ecco, io volevo dire questo: i Riva sono possiedono l'acciaieria di Brandeburgo. L'acciaieria di Brandeburgo è leggermente diversa perché ha dei forni ad arco da 60 tonnellate, però lì sono stati premiati per il minimo impatto ambientale. Questa acciaieria è attigua alla città di Brandeburgo, in cui io ho lavorato quando era di proprietà della DDR questa acciaieria, e poi l'hanno rilevata in Riva. Cioè, la faccenda è questa: mi sembra strano che della gente come in Riva, che in Germania vengono premiati per il scarso impatto ambientale, a Taranto non riescono a creare una situazione analoga. Io penso che invece sia facile giudicare una teoria da una scrivania e criticarla, e non capire un'acciaieria da come si lavora all'interno dell'acciaieria. Che è, devo dirle Adolfo, uno dei tratti prevalenti dei moltissimi gli sms che stiamo ricevendo al 349-238-6666. Abbiamo ripristinato il collegamento? No, non riusciamo a richiamarlo. Va bene, allora io passo a un'altra telefonata, però ci tengo particolarmente a sentire la voce del presidente dei Verdi. Sentiamo Mauro, che ci chiama dalla provincia di Monza Brianza. Prego Mauro. Sì, sono Gentini, buongiorno a tutti. Io sono comunque di origine tarantina, quindi conosco benissimo il problema, potrebbe essere un esperto in ambiente sicurezza. Allora, aspetti, è un esperto, si sposti anche lei un po', ma oggi non siamo fortunati con le linee telefoniche. Ha detto che è di Taranto e che è un esperto di sicurezza ambientale, ho capito bene? In ambiente sicurezza, esatto. Sì. Allora, qui vorrei porre alla sua argomentazione altre due indicazioni precise. La prima è che l'autorizzazione integrata ambientale che è stata sviluppata dal sito di Taranto e che è stata poi approvata dal Ministero dell'Ambiente, chiaramente è uno strumento che serve a condensare tutte le autorizzazioni alle emissioni, ma non va diciamo ad analizzare nello specifico quelle che possono essere le attività poi di bonifica di contaminazioni pregresse, perché stiamo parlando di 40-50 anni di contaminazione. Ecco, cosa dovrebbe fare? Che è un po' il problema, mi perdoni, per far capire meglio chi ascolta, dello sfalsamento temporale delle misure assunte ieri della magistratura, che infatti pongono al centro considerazioni di anni e anni e anni e anni alle nostre spalle, rispetto al fatto, secondo me, che dovrebbe essere almeno altrettanto importante o significativamente importante considerare poi quello che è stato fatto recentemente e che è oramai accordo tra azienda, autorità locale e governo, ce l'ha detto Clini, come fare. Ma volevo solo interromperla per far capire meglio a chi ascolta. Diceva? Esatto. Oltre a questo c'è da considerare che questa autorizzazione integrale ambientale ha anche in allegato un bel corposo piano di monitoraggio che servirà in avanti a effettuare tutte le valutazioni del caso sulle emissioni una volta che saranno poste in essere gli adeguamenti al progresso tecnologico dell'impianto. Però c'è da considerare quest'altro aspetto, che Taranto è un'area ad elevato rischio di crisi ambientale ed è un sito di interesse nazionale. La bonifica passa attraverso il Ministero dell'Ambiente, che le posso garantire perché lavoro in una grossa azienda e mi occupo proprio di bonifiche e di rapporti con il Ministero, hanno una particolare lentezza almeno fino all'anno scorso. Clini su questo è stato tante volte anche accusato di essere, di rappresentare invece rispetto ad anime precedenti che hanno gestito il Ministero una modalità che chiede agli uffici di operare più sollecitamente, e tanti hanno anche detto sei troppo vicino alle imprese. Però torniamo a Bonelli e speriamo che il collegamento sia di buona qualità. Allora ricominci per dal capo, perché diceva è stata una brutta giornata. Perché Bonelli? È stata una brutta giornata perché ieri l'autorità giudiziaria ha sancito di fatto la sconfitta della politica delle istituzioni, perché da anni era noto a tutti il disastro sanitario in cui si trova la città di Taranto. Parlano i dati e parlano anche le corsie degli ospedali. Gli ospedali di Taranto sono pieni purtroppo di bambini, di persone che hanno leucemia e tumori, e come dice la Procura della Repubblica sono estremamente correlate a livello di inquinamento. Poi aggiungo anche un'altra cosa, non so se è noto che l'autorità sanitaria da anni ha vietato a una distanza di 20 chilometri la coltivazione, l'agricoltura, perché i terreni sono carichi di diossina. In 3 anni sono stati abbattuti 3.000 animali perché carichi di diossina. Sono stati persi posti di lavoro nel settore dell'agricoltura per circa 1.000 unità, la mietericoltura è in ginocchio. Quindi c'è un problema serio, di un disastro sanitario che era noto e che prima di arrivare ad oggi a quei provvedimenti, dove ritengo che la Procura ha fatto il suo dovere, la politica doveva attuare quei provvedimenti necessari, che io ritengo siano processi di conversione industriale come sono avvenuti in tanti paesi d'Europa e del mondo proprio in questi settori, cosa che la politica si è ben guardata dal fare e da avviare. E cioè lei dice i programmi di investimento dal 2008 in avanti in realtà non hanno affatto centrato con la giusta sollecitudine e il rilievo anche di risorse necessarie la riconversione delle conseguenze del processo produttivo. Ma io mi permetto anche di contestare una cosa. Quando il ministro Clini, che ho avuto ieri mattina e che cortesemente sì, è stata una persona estremamente squisita, con cui ho parlato ieri mattina, e mi ha spiegato, ancora prima che si sapesse ufficialmente dell'ordinanza della magistratura, io ho avuto modo di dirgli che i controlli che il nucleo operativo ecologico dei carabinieri ha fatti non li ha fatti 3 anni fa. Cioè questa cosa della ricontestualizzazione temporale non è vera. No. I rilievi e i controlli sulle emanazioni diffuse, sui controlli, sui fenomeni, diciamo, non leciti dentro quell'attività sono di pochi mesi fa, sono stati fatti ad esempio nel luglio dell'anno scorso, molti rilievi in questa direzione. E poi mi permetto di dire anche una cosa: ogni tanto chi amministra guardi in faccia nessuno, centro-sinistra, centro-destra. Io voglio dire anche al presidente della regione Puglia, Vendola, al quale io per anni ho chiesto di avere un'indagine epidemiologica e sanitaria, la ragione per cui non l'ha fatta la Regione Puglia questa cosa, l'ha fatta l'autorità giudiziaria. Vuol chiedere anche una spiegazione del perché il monitoraggio è in continuo. Cioè i cittadini possono avere il diritto di sapere, visto che c'è un polo siderurgico, unico esempio in Europa e nel mondo in cui un polo siderurgico è praticamente dentro una città, perché di questo si sta parlando, per quale motivo il monitoraggio in continuo degli inquinanti non viene fatto? Perché non viene fatto? Allora, posso farle una domanda? Perché queste sono tutte considerazioni ragionevolissime, perché è ovvio che quando si tratta di stabilimenti che hanno una lunga storia dietro, è ovvio che poi nel contesto urbano si trovano a dover rispondere di conseguenze per sulle quali abbiamo consapevolezza che 70 anni fa non c'era, eccetera, eccetera. La domanda è: tutte queste giustissime sollecitazioni e preoccupazioni, come possiamo declinarle congiuntamente al fatto di non interrompere la lavorazione a caldo nello stabilimento, che è quello che poi i lavoratori chiedono? Non è che i lavoratori dicono vogliamo morire per lavorare, però tutto quello che va fatto si può fare senza interrompere la lavorazione a caldo. Secondo lei è insensata questa richiesta, Bonelli? Ma guardi, io innanzitutto le dico che le preoccupazioni dei lavoratori sono anche le mie. Il problema è che la politica è arrivata al capolinea, perché la politica, per quale ragione, in particolare dire le istituzioni che doveva decidere, non ha preso quei provvedimenti prima che arrivasse l'autorità giudiziaria? È chiaro che adesso la palla è in mano all'autorità giudiziaria. Se io avessi una responsabilità di governo, allora farei subito una cosa: andrei in Europa, introdurrei il principio che chi inquina paga, perché il gruppo Riva, come lei ha fatto notare prima, facendo la storia, prima i Italsidre, adesso è riuscito, devo dire, anche con una sapienza di management, ad avere utili notevoli negli ultimi 3 anni, ha avuto utili per circa 2,5 miliardi di euro. Esatto. E allora questi utili devono essere reinvestiti nelle bonifiche, nella messa in sicurezza. Però la bonifica si deve fare se si chiude la parte principale del rubinetto dell'inquinamento. E dico anche, si faccia come il bacino carbonifero della Ruhr, dove gli operai in Germania sono stati riutilizzati come tecnici delle bonifiche, si faccia di Taranto un'area no tax per consentire alle imprese... Adesso non arriviamoci troppo, però lei una cosa l'ha detta chiara, ha detto io sono per l'incompatibilità di alcune lavorazioni in quel sito rispetto a quel contesto urbano. Poi facciamo la riconversione e l'occupazione la tuteleremo così. È ovvio che questo significa rinunciare all'idea che continuiamo a tenere lì, perché lì non è che una cosa si può spostare di 10 km mentre c'è la lavorazione a caldo, rinunciare allo stabilimento siderurgico più grande in Europa. La cosa ha delle conseguenze. Io capisco il ragionamento di Bonelli ed è giusto che a Bonelli chiedessimo di essere qua, perché altrimenti facciamo solo la parte di chi difende, io la difendo, la tutela del lavoro e dell'impresa, ma lì c'è un problema enorme. Gianfranco da Taranto, che ne pensa? Un ascoltatore ci sta chiamando da Taranto. Dottore, buongiorno. Effettivamente le parole di Bonelli sono più che condividibili. La domanda che lei ha fatto a Bonelli potrebbe essere in qualche modo risolta con il discorso che il punto di convergenza sarebbe nella produttività dell'impresa e nel minore rischio ambientale nei confronti della città. Io sto intervenendo a seguito di una fotografia che ho inviato alla sua segreteria. Sì. È una fotografia scattata a fine febbraio da circa 6 km rispetto al centro siderurgico, dalla città. Quelle manifestazioni di inquinamento sono costanti e continue in città. Io la chiamo questa mattina perché la mia emozione è prevalente per mio figlio. Io ho 46 anni, mio figlio ne ha 4. Io ho vissuto in una città dove costantemente ho visto morire amici, cugini, zii per tumore. Quindi questo dato è sicuramente una parte della bilancia. Dall'altra parte io capisco anche tutte le scelte imprenditoriali e le scelte di chi ha deciso di andare a lavorare in quello stabilimento, perché nessuno obbliga i tarantini ad andare a lavorare all'Ilva. C'è tanta difficoltà in questa problematica tarantina, ci sarebbe da discutere su. Però Gianfranco, lei dice i morti che parlano, oltre ai segni visibili dell'impatto fortissimo ambientale, ci devono portare alla conseguenza che non si può fare la lavorazione dell'acciaio dove è sta. Difficile, cioè, dottore. Guarda, no, che sia difficile è evidente a tutti abbiano un'idea, perché un impianto siderurgico non sarà mai, per così dire, un parco, certo, in metà, certo. Cioè, questo è ovvio. Guardi, però lei dice non ce lo possiamo permettere, abbiamo pagato un prezzo troppo elevato e dobbiamo riconvertire. Okay. Abbiamo pagato il prezzo dell'arsenale da più di 100 anni. D'accordo. Io vorrei dare appuntamento a tutti a Taranto davanti alla raffineria, sulla statale 106, per sentire l'odore acre. Chi conosce i posti che sta evocando sa che ha ragione. Il problema però è che la storia economica delle imprese ha una storia e altrove viene considerata compatibile anche con le conseguenze. Non sto dicendo con centinaia di morti impropri, sto dicendo che siamo in una condizione molto delicata. E visto che i privati l'avevano rimesso in piedi, io sbagliando la penso come i lavoratori, che dicono: se ci fate tenere aperta la lavorazione a caldo con le misure della magistratura che danno un giro di vita all'implementazione della messa in sicurezza, certo non diminuiremo i danni e l'impatto da un secondo all'altro, perché ci vorranno anni, comunque bisogna saperlo, ma quella è la posizione di chi dice è compatibile una lavorazione tecnologicamente avanzata investendoci sopra in sicurezza col posto dove siamo. Altri dicono no, perché interrompiamola questa storia perché il prezzo è troppo amaro. Questo This is the end oggi dedicato a questa vicenda dolorosa e pesante come impatto dell'Ilva di Taranto e delle misure assunte ieri della magistratura, anche alle vittime delle lavorazioni che ci sono state lì nella popolazione, accertate nelle perizie in base alle quali i magistrati hanno assunto le loro misure. Che dice Palombella in conclusione? Chi dice facciamo stato? Non c'è più. Palombella ha abbassato il telefono, quindi non ce l'abbiamo più. Allora continuiamo ancora con telefonate e poi torniamo da Bonelli. Abbiamo Pasquale che ci chiama da Taranto. Prego Pasquale. Buongiorno, sono un imprenditore dell'indotto Ilva, pertanto mi toccano da vicino queste vicende che ha colpito ieri sera, ma che era ormai nell'aria da tempo. Nonostante ciò sono favorevole a quello che Bonelli ha detto, perché io vivo in quella realtà. Le posso garantire che produrre acciaio non significa uguale inquinamento, perché io lavoro anche in Europa, lavoro in Belgio, in Germania, presso acciaierie, dove non è del tutto una cosa scontata, certo, che ci debba essere inquinamento. Ormai è 20 anni, come avete detto sin d'ora, che il gruppo Riva ha acquisito la proprietà di questo, sì, stabilimento, con investimenti, giusto quelli per andare avanti l'impianto, per non fermarlo. Non ferma la produzione. Pertanto io le dico una cosa: se noi vediamo il quartiere Tamburi adiacente all'acciaieria Ilva, dove c'è un livello di disoccupazione pazzesco e di conseguenza, sì, altissima delinquenza, questa è gente che muore, sia di fame che di tumore. Pertanto io dico, è vero sì inquinare, riduciamo l'impatto ambientale, ma disoccupazione a Taranto zero. Non arrivano le aziende da Brescia, da Genova, a fare da mine contractor e a dare le briciole a noi aziende tarantine. Io dico che Ilva inquina, devi produrre acciaio, noi la città ti mettiamo in condizione di produrre acciaio a costi competitivi, ma disoccupazione a Taranto zero. Ovviamente abbiamo avuto una classe politica e una classe delle associazioni di categoria che non hanno per niente, ripeto, per niente tutelato le realtà locali. Grazie, anzi, grazie Pasquale. Aspetta un secondo perché noi stiamo andando verso la fine, ma io volevo risentire l'opinione di Palombella e Bonelli. Un minuto. Palombella, senta che sta sentendo che le opinioni di chi dice qui dobbiamo girare pagina, la lavorazione a caldo, forse è meglio chiuderla, perché qui bisogna passare a una revisione generale dell'opportunità di tenere questa lavorazione in quel contesto urbano. E i lavoratori che dicono? Io ritengo che sia, voglio dire, suggestiva una idea del genere, o meglio, tutto rispetto a tutte le opinioni, però chi dice queste cose deve fare i conti con una realtà che è di questa natura. Il ricambio generazionale è venuto circa 5-6 anni fa e quindi abbiamo una popolazione media dei lavoratori dell'Ilva che è intorno ai 30 anni, da 30 a 40 anni. Secondo, dire che la lavorazione a caldo è superata, io dico che bisogna avere il coraggio di dire che lo stabilimento deve essere chiuso. Esatto. Perché non c'è una possibilità per chi conosce il ciclo integrale e per chi conosce quei volumi di produzione. Esatto. L'Ilva ha dei volumi di produzione molto alti, circa 9 milioni di tonnellate. Esatto. E quindi queste 9 milioni di tonnellate possono essere solo prodotte con un ciclo integrale. Aspetti, allora, la fermo qua, perché questa è la conclusione anche secondo me. Bonelli, lei è disposto a dire bisogna farlo, investiamoci sopra, ma bisogna farlo. Guardi, a Genova, a Conigliano, l'aria a caldo è stata chiusa, in accordo tra l'altro con l'Ilva. C'è un problema che io voglio anche porre ai sindacati. Noi riteniamo che bisognerà avviare questo processo di conversione, però la domanda è questa: rispetto a questo alto livello di mortalità e di malattie che c'è nella città di Taranto, che è assolutamente innegabile, cosa facciamo? Spostiamo la città di Taranto? No, è chiarissimo. Allora, aspetti, aspetti. Alt, perché il tempo sta finendo, io ho un annuncio da fare, quindi abbiamo dato tutte le posizioni. Io credo che bisogna continuare a tenerla aperta, ma vedrete che poi alla fine non sarà così la lavorazione a caldo. Ma vi devo un annuncio, cari ascoltatori fedeli in ascolto, perché mancano pochi secondi, ma domani guardate su 6 giornali, sul Mattino, sul Messaggero, sul Gazzettino, sul Sole 24 Ore, sul Fatto e sul Foglio, ci sarà il mitico annuncio che vi avevo preannunciato il 12 luglio, un bel manifesto con 250 italiani che vi chiedono di riflettere su alcune cose che riguardano la condizione del nostro paese. Di più ora non posso dire, ma su questi 6 giornali, Sole, Fatto, Il Foglio, Messaggero, Mattino e Gazzettino, domani una bella pagina a pagamento per capire, io sono uno di quei 250 italiani, che cosa si può fare per non essere più sudditi. Questa è una occasione che vi offriamo per riflettere. Se volete, ci saranno le modalità per aderire a una bella associazione, non un partito, per non essere più sudditi. Buon fine settimana e buona lettura dei giornali. A lunedì.